Ad alta voce. Monica De Muro legge L'Iguana di Anna Maria Ortese. Incontro al pozzo. Il buon marchese, la bestia, effetti di una sciarpa. Salve! Gridò. Bisogno di niente? Si rese conto, immediatamente impacciato dalla sua goffaggine, che il silenzio di quei personaggi non era dato da stupore o malore, quanto, molto probabilmente, dal fatto che egli si era espresso in schietto lombardo, lingua che colà non doveva essere conosciuta. Ma ciò, legandosi all'aspetto perlomeno bizzarro e triste di quegli esseri e alla strana occupazione cui sembravano intenti, mentre l'oceano pesava e splendeva da tutte le parti, la lettura o l'ascolto di qualche poema o romanzo gli procurò qualche attimo di una vaga apprensione. Si aggiunga che l'isola, per quanto impercettibilmente, sembrava stesse muovendosi. E ciò era frutto senza dubbio della lunga navigazione, come, non è escluso, del fatto che remando il conte era venuto a trovarsi in un punto da cui la Luisa più non si vedeva. E dietro di lui, come un muro eterno, andava chiudendosi il mare. Intanto però, così sono fatte di nulla certe sensazioni e appaiono alla fine infondate perplessità e illazioni, il più giovane di quegli uomini, e precisamente colui che teneva circolo, aveva compreso l'imbarazzo del visitatore, per cui, staccatosi leggermente dal suo naturale podio e mentre la vecchia rientrava in casa, si affrettò a muovergli con un sorriso incontro. Poteva avere al più 18 anni e tutto in lui parlava di un'autentica ma già rovinata bellezza. Alto e sottile come una gru, il viso lungo e stretto degli iberici, ma occhi chiari, una capellatura slavata da britannico, vestiva, come gli altri, di panni poveri e colorati, la cui fattura sembrava rimontare a gran tempo. Ma diversamente da quelli degli altri, che erano sul verdone e il blu con un effetto generale di viola, i suoi erano chiarissimi. Un gilet di velluto giallo, calzoni celesti, anche di velluto, calze rosse e per finire una camicia di tela verde riccamente ricamata e logora. Ai piedi ciabatte indegne. Il viso e le mani, che uscivano da quelle sontuose stoffe bucherellate dalle tarme, gualcite e offese in mille modi dagli anni come da un uso visibilmente perenne, erano al pari di quelle delicati e consunti, con un che di ingenuo, di timido, di stralunato, e pur nella appassita bianchezza, di gioioso. Avvicinandosi sempre più si illuminava, come tra le nebbie al sole, povera riva, e il conte vide che la pelle trasparente della sua faccia era tutta intersecata da rughette fini e brevi, simili alle nervature che coprono taluni petali di fiori, con un effetto assai strano, a quell'età, di decrepitezza e rassegnazione. Si fermò a pochi passi dal daddo e, abbassando appena la testa e parlando nel modo più dolce e quasi femmineo un antico portoghese, si presentò come Don Ilario Jiménez dei Marchesi di Segovia, conte di Guzman, unico abitante, insieme ai fratelli, dell'isola. Quella precipitazione che aveva prevenuto il normale dovere del forestiero di dichiararsi egli per primo, sia per una semplicità di ragazzo, sia perché Aleardo, sorpreso, non fiatava, commosse il conte, che inchinandosi a sua volta si presentò, ringraziando in portoghese, lingua che conosceva benissimo per essere stato più volte in Brasile, di tanta affabilità. E raccontò come fosse in viaggio da alcuni giorni, con l'intento di raggiungere qualche luogo sconosciuto, cosa però, dato l'attuale sviluppo delle scienze nautiche, in cui più non sperava. Ma la fortuna lo aveva assistito. «Siete cortesi, o signor, a esprimervi così nei nostri riguardi», gli rispose dopo averlo ascoltato col suo puro sorriso doninario e soggiunse un po' malinconicamente: «La nostra cara terra non è neppure segnata sulle carte, tanto è piccola, né può sventolare bandiera alcuna. Tuttavia, noi ci sentiamo sempre portoghesi. Tale almeno era la nostra famiglia quando da Lisbona nel 600 si trasferì qui. Ma vi dispiace seguirmi?» Lo condusse, così dicendo, verso la casa. Una grigia e squallida costruzione a un sol piano, adorna su un lato di una torretta. E un po' perché da pochi istanti la luce del sole sembrava ulteriormente abbassata, come di primavera quando vuol piovere, parve al conte più l'indicazione di una casa, come usa nel moderno teatro, che una vera abitazione, e ne provò un senso di incertezza. Alzandosi poi, i fratelli di lui per salutarlo, il dado notò quanto erano alti e lunghi e completamente diversi, come nati da altra madre, dal più giovane. E dalla fissità e malinconia delle loro facce, gli parve capire perché la vita, per il buon marchese, non si presentasse troppo luminosa. Quei due uomini, il cui aspetto nell'insieme era più quello di mandriani o di servi che di gentiluomini, dopo essersi presentati come Ippolito e Felipe Avaredo Guzman, figli di una prima moglie asturiana del defunto marchese, ripresero il loro atteggiamento apatico, lo stesso che avevano mentre ascoltavano la lettura del libro. E ciò si spiegò presto, ad Aleardo, come il frutto, oltre che della loro rozza e muta natura, e perciò di un lentissimo movimento dell'immaginativa, anche della disperazione economica in cui palesemente versavano, e che non trovava requie, come nel Candido e Ilario, in qualche risorsa letteraria. Essi sembravano avveduti a tal punto del deserto e della decrepitezza in cui erano relegati, e così consci di non poterne uscire in modo alcuno, che quell'attenzione che ponevano nelle letture del fratello doveva interpretarsi sicuramente come l'impossibilità per un morente di scacciare una mosca, non già come attenzione. E capito questo, il daddo già si struggeva pensando il modo di profondere in quell'isola le sue ricchezze, a ciò che essi risorgessero come piante, come di dare al sensibile Ilario un più degno uditorio, e se lo meritava, onori e fama. E ringraziava il cielo di averlo fatto conte di Milano e sua madre di averlo spinto con la sua inesausta ambizione verso quella povera terra. Intanto don Ilario, fosse per la giovinezza che aveva in comune col nobile lombardo, fosse per quella bontà e dolcezza che era in tutte e due, sembrava sempre più lieto della visita dello straniero e quasi pensare il modo di prolungarla. Del che gli fu porta occasione mentre lo accompagnava in visita per l'isola. Si stendeva subito dietro la casa una collinetta messa, o per meglio dire lasciata, come natura aveva voluto a pascolo, e contornata da quelle querce che dal mare erano parse cetacei e difendevano i solitari abitanti dagli assalti del vento oceanico. Là si vedevano alcune pecore, quali accosciate tra l'erba, quali con la testa bassa, brucando, e come ogni pecora, forse a nulla pensando. Più a destra, in una specie di canalone dove si infilavano vento e sole a esaltare l'argento e l'istinto musicale di alcuni ulivi che tremavano contro la linea abbagliante del mare che qui appariva di nuovo, c'era un pozzo, e presso di questo si affannava la vecchia che poc'anzi è rientrata in casa, vedendo che c'erano visite e che poi doveva essere uscita da un'altra parte. Grande, a questo punto, fu la sorpresa del Daddo, nell'accorgersi che quella che egli aveva preso per una vecchia altri non era che una bestiola verdissima e alta quanto un bambino, dall'apparente aspetto di una lucertola gigante, ma vestita da donna, con una sottanina scura, un corsetto bianco, palesemente lacero e antico, e un grembialetto fatto di vari colori, giacché era la somma evidente di tutti i cenci della famiglia. In testa, a nascondere l'ingenuo muso verde bianco, quella servente portava una pezzuola anche scura. Era scalza e sembrava, benché quelle vesti, dovute a uno spirito puritano dei padroni, la impacciassero non poco, adatta a svolgere tutti i mestieri con una certa sveltezza. In quel momento, però, sembrava proprio non farcela. Una delle sue verdi zampette era fasciata e con l'altra, sospirando intensamente, essa si sforzava invano di tirare su dal pozzo un grosso secchio. Immediatamente il Daddo, con quello spirito di cavalleria che lo rendeva così amabile, senza perdere tempo a chiedersi come avrebbe voluto la religione che egli professava, se quella creatura era cristiana o pagana, come più sembrava, si precipitò accanto alla bestia che gli levò in volto due occhietti supplichevoli e fantasticanti, mormorando, mentre il conte prendeva lui il secchio: «Grazie, signor. Grazie. Non c'è di che, nonnina. Sì, il raffio si è guastato», osservò Don Ilario, che non appariva affatto preoccupato dall'impressione che una tale servente poteva fare sul forestiero. E bastò questo accento tranquillo, privo in modo assoluto di imbarazzo o di pena, a persuadere il Daddo che non vi era in quella vecchietta nulla di meraviglioso, o se per caso vi era, faceva parte della normalità del mondo, che esso stesso, dato che all'inizio non era e poi è stato e non si vede chi o che cosa l'abbia originato, era abbastanza enigmatico. In ciò lo aiutava moltissimo quel suo spirito estatico che dappertutto nel meccanismo della natura scorgeva un'anima uguale e avvertiva un appello alla propria fraternità. Si aggiunga che vi era effettivamente nella creatura un che di umile, di pensieroso. Evitando di guardarla con curiosità, a ciò che non si sentisse imbarazzata, il Daddo sveltamente tirò su l'altro secchio e mentre il marchese si profondeva in ringraziamenti disse che il guasto al raffio era cosa da nulla e che lui poteva rimediarvi, solo doveva tornare a bordo a prendere il necessario. Pochi minuti dopo era di nuovo sulla Luisa e guardandosi bene dal raccontare al fantasioso salvato ciò che aveva veduto, caricò sulla barca insieme agli attrezzi più roba che poteva: una cassetta di Malaga, romanzi italiani che voleva regalare a Don Ilario e la sciarpa di seta filettata d'oro, dono veramente folle per la povera vecchia. Si diceva nella sua ingenuità che quella creatura era dopo tutto un essere femminile e qualche vanità doveva pure nella sua misera vita esserle rimasta. Non sbagliò. Quando l'iguana, perché era proprio un'iguana, vide steso sull'immenso focolare della cucina quel puro simbolo della civiltà europea, diede uno strido acutissimo che finì in un lamento, le sue zampette davanti, di cui una, come il lettore ricorderà, era fasciata, si congiunsero in un gesto di straziante muta ammirazione. Poi, da quegli impercettibili e miti occhietti che palpebre rugose in eterno nascondevano, scese, cioè salì, una lacrima, in quanto le palpebre delle iguane si aprono esclusivamente dall'alto. Essa mormorò qualcosa di incomprensibile, in cui si distingueva tuttavia un «No para mí, no para mí». E invece è proprio per voi, nonnina, replicò il daddo, mentre Don Ilario, incantato, sorrideva al suo nuovo amico. Ecco, guardate se non sembrate una ragazza, se non vi sta più che bene. Dicendo questo, come accade talvolta quando parole dette senza una precisa intenzione rivelano come raggi scaturiti dall'inconscio una qualche verità sfuggita alla dura mente, il giovane si rese conto, stordito, che la creatura che egli aveva chiamato nonnina era, in realtà, ancor meno di una ragazza, essendo una iguanuccia di non più di 7-8 anni, che solo il grinzoso aspetto della sua specie e un deperimento che si poteva attribuire a cause varie, come il portare pesi, il servire assiduo e non so che selvaggio abbandono, troppo grave anche all'infanzia di una bestia, avevano come accartocciata e incupita. Ora la gioia che la animava tutta lo indicava. Con certe mossettine che a qualsiasi spettatore, meno che al tenero conte, sarebbero parse grottesche, per non dire orripilanti, la creatura si aggiustò la sciarpa sul capo, inclinando, mentre ne annodava i capi, qua e là la lunga e paurosa testina, proprio come una donnina davanti allo specchio. E non vedendo poi dove potersi rimirare, corse davanti a un immenso paiolo di rame che lei stessa aveva reso brillante con le sue verdi manine. E lì si inchinò, piegando una zampina di dietro, in modo che il conte aveva visto fare alle belle signorine dell'alta società, quando si regalava loro qualche lussuoso straccetto, e poi girò verso di lui il muso raggiante e non di meno tanto umile che al conte venne da piangere. E voltandosi verso il marchese, sperava vedere sul suo bel volto grinzoso lo stesso sentimento di affetto che provava lui. Ma non vi era questo, sebbene una benevolenza, diremmo, forzata, distante, come se gli attucci di quella creatura lo imbarazzassero e anzi si ripromettesse, appena fossero stati soli, di rimproverarla. «Basta ora, Estrellita, ora vai in camera tua, che il signor Conte ed io dobbiamo parlare», disse con bontà, eppure durezza, Don Ilario. «No». E altre confuse interiezioni della lingua di Camões nel balbettio di quell'essere avevano un che di miagolante e ora di atterrito. E fecero una tale confusione dentro e sotto la sciarpa bianca e insieme si udì un così argenteo suono di campanellini disperati che il conte si volse intorno per vedere che fosse. E l'iguana non c'era più. Da una botola di fianco al focolare era scivolata rapida nella sua stanza, un locale, forse la legnaia sotto la cucina, e la botola si era richiusa. Ma non tanto che una fessura ancora tremante tra la tavola e l'ammattonato non indicasse una tenebra tanto assoluta da chiedersi se quella era in vero una stanza e non il più segregato dei pozzi. E venivano di là ancora, ma soffocati, certi no, che erano la voce di una disubbidienza forse cronica, non lontana dal pianto, e che in un essere così giovane avrebbe chiesto altra indulgenza. Ma di indulgenza, per non dire di pietà, non vi era traccia sulla pallida faccia del marchese. Anzi, ora quella sua benevolenza andava sfrangiandosi in non so che muta e atroce impassibilità, che si dissipò a sua volta sotto un sorriso un po' falso, mentre la voce dolce diceva «Sì, ammetto che vi sia un che di nervoso nella nostra iguana. Ti dirò poi, conte, dove la comprammo. A parte ciò, credimi, essa è bravissima». E non so che sarebbe di noi e di questa casa senza l'aiuto delle sue vecchie mani. «La compraste?» disse il conte. Nemmeno si era accorto di quel tu così umano e si fermò, perché in tutta la sua voce e negli occhi limpidi aveva messo un tale slancio che chiunque, per non dire un essere della squisita sensibilità di Don Ilario, avrebbe intuito cosa l'anima sua, a insaputa della sua stessa mente, meditava, e cioè comprare a sua volta la misera iguana per restituirle con la libertà tutti i sogni della sua animuccia bestiale. Ma il marchese, a questa interrogazione, come avesse udito solo un po' di vento o il mormorio che a volte fa il mare, più non rispose. La seconda puntata dell'Iguana di Anna Maria Ortese, letta da Monica De Muro per Ad Alta Voce, che è a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, e la regia è di Riccardo Amorese. Come sempre potete riascoltare le puntate dei libri letti nel corso di Ad Alta Voce su raiplayradio.it.